siamo insieme? Sì, lei può dire di sì, però non si sa mai se dice di no, è un po' dubbiosa. I tuoi occhi brillano di passione, la luce dei tuoi occhi splende tutto il giorno, ti guardo e ti vedo tutti i giorni, ti penso, non dormo la notte, non ci dormo proprio, non chiudo occhi. Mi è caduto un barcone in guallo, tanto che mi l'è suonata tutta la notte. Mo il barcone si è aggiustato, però c'è un incontro tra balconi. La donna è al balcone e l'uomo è un altro balcone. È nato un amore platonico. Si incontrano due dal balcone e dicono: ma che vuoi tu? Lasciami stare. Ha detto vabbè, non va niente, è sbagliato, persona. Stavo parlando con un uccellino. Buona serata, grazie.